canale 12, prego. All'ospedale c'è lei che è la bambina che era sul seggiolino, Niente, dopo si è sbattuto prima quella lì, poi c'è entrato dentro il quadrato dove c'erano le macchine parcheggiate e si è sbattuta le macchine parcheggiate. Non mi ha finito a fare di bene la macchina, ha detto bastarda, mi ha tradito. Cazzo, la bastarda non è vero, tu sei che stavi guidando come un matto. E allora? Roberto. Tu vuoi entrare, va. È portante. Ah, portante. E un'altra volta lo stesso, questo qui in moto sedeva le ragazze a turno, camminava come uno scemo, ma tirati in moto di quella della strada, cioè, fa una curva, ragazzi, sbaglia, gli dà una strampata che si è fatta male la tipa che ce l'ha dietro, lui non si è fatto nulla, si vedeva male. Senti, io non faccio più. Hai capito? Sono moto a massa cruciale, dici? Bisogna dargli del lì alla moto. Sì, ma poi, ciao, ma poi, io sai cosa c'è? Quella moto lì, cazzo, sono schegge, schegge, cazzo, camminano in un bel... specie l'R1, l'R6, della Yamaha, cazzo, sono mostri. A voi, no. Ma un po' tutte, anche Suzuki. Suzuki alla Yamaha la batte, Suzuki... 1000 alla Yamaha non di molto ma un po' la batte, l'hanno provato in pista e la Suzuki è arrivata un po' prima, ma poca roba. Sì, infatti più o meno si pareggiano quasi tutte, anche il 600, l'R6 con la R1 praticamente l'R1 è davanti, l'R6 con la ruota di davanti e va a livello di qua di dietro dell'R1, capito? Sì. Uguali, sono molto vero che cammina a gogo. Ciao Luca, buonasera. Ho visto, ci stavo operativo, vedo sotto, mamma mia, boh, che feo. La sorella di mia cognata si è presa il PC nuovo e gli ho tutto sistemato. Tu conta, dalle 4 ho finito poco fa, perché non riuscivo a trovare la password per connetterci a internet. Poi l'ho tutto configurato, un casino qua. Ma vai a casa, tu uscite voi. Perché sto tornando da poco, non è che ci sia la moto a casa. Sono andato a fare la scuola guida Manuela, poi sono andato a fare un giro e poi sono ritornato. Come non c'è mai nessuno sabato qua? Prima dopo pranzo e sabato era sempre pieno, va, quando dicevo manco lo sabato. Sto continuando a finanziare i soldi per questi apparecchi, ma mi sa che non ne vale la pena. Beh, non so io. Io non finanzio niente, me li mangio. Fa capo. E vabbè. Qui io ho questa antenna messa male, bisogna abbassarla e rifare il radiale, perché sennò messa male, oddio, va bene perché va bene, ma non mi piace, riuscì a fare. Adesso mi arriva nella prossima settimana il computer già. No. Oh, mi arriva il computer nuovo, cioè nuovo, usato, da 17 pollici, il monitor. Ma portato? Già. Dove l'hai preso? Un regalo. Ah, no, pensavo l'avessi comprato da eBay. Ho fatto da eBay in Germania. L'acqua, 200 euro. Due spese. No, l'hai preso da eBay? Amica tua sempre. Questo è bravo. Cazzo, mi viene a trovare tutte così le donne. Passo. Guardi. Devo andare a comprare CD di Monà. E poi vado di mandargli un pacco, c'è un certo formaggio. Vediamo un po' là. Beh, dai, adesso lo metto. Adesso lo metto. Tu fai un formaggio buono, lo vuoi sapere qual è. Dimmi. Il fiore sardo, guarda, la Sisa e c'è. Il fiore sardo, guarda, è uno dei più buoni che c'è di quelli in commercio. Qual è? Fiore sardo. Morbido, duro, salato, dolce. Duro, piccante, come piace a me. Piccante, no, comunque lo devo chiedere. Però mia, usilo, vai, che recupero la forma. A quello che li vende lì alla entrata di Usilo. Se ne passo io fanno loro. Oh, adesso mangiato 10 malancine che ho fame, boh. Io ho mangiato solo verdure oggi, patate con carciofi, verdura cotta. E boh, non ho mangiato altro. Però questi carciofi fanno brutti effetti. Ma non ne parlare, va. Ho comprato una cassetta a mia moglie, li ho mangiati tutti i modi, con la pasta. A me mi piacciono un bel con l'olio crudi così, dopo li ho mangiati con le patate, insomma, chi ne ha più ne ha più ne metta. Poi alla fine ci stavano quasi seccando, allora li hanno appreso e li ha fatto un po' sotto lì. Intanto allora la tua moglie alle loro spingi. Sì, perché sta comprando lì. Sta comprando lì, ho detto, quello della pallottola. Facevo ciclismo e poi due perché sono allenati da lavoro adesso, quindi sono sempre belli turgidi, ma forti, proprio lui. Figurati, io sali scendi dal trattore, quando partiamo 100 rimorchi in Tirrenia, te lo dico io. Papà, grazie. Vabbè. E quanti altri si scende al turno? Quanti? Quanti trattori si scende al turno? Due. E in due, quindi 50 a testa, grazie a loro. Esatto. Sembrano pochi 50 a testa, ma quando te devi scendere, solo fare i piedi, attaccati l'aria, è un casino. Vabbè. Quindi lavora nessuno, i suoi pregi, i suoi difetti. Poi a fine mese ci sono le quote che ti appagano, va? Beh, nessuno lavora gratis. No, io no. Ma diciamo che ci sono lavori, lavori. C'è quello che guadagna 3.000 euro, c'è quello che ne guadagna 1.000. Beh, certo. Chi è che ha detto se vuole un asciugamano? Hai dato un asciugamano, poverino. Ecco, mia Luca, mi date un asciugamano, anzi la cremina che è stanco. Buonasera, ciao a tutti. Sei di fronte al break, avanti. Ciao Gianni, ciao Genio. Avanti il break. Minimo 25-30 watt, se no poi esci male. Senta, ma al momento, ripeto. così com'è. Carissimo, ma tu regolati, fai andare in Svizzera quando calchi che c'hai, che regolato il power. Deve essere a radio calda, lo smetto deve arrivare a 7, se ti dà 30 watt, con picchi a 50. Ehi, capo, vai. Sì, è freddo ancora, vai. Vabbè, già era acceso un po' qua, però non è che c'è tanto caldo. Ah, va, va, tu a me come mi ascolti, Franco? Benissimo, c'è una bella radio, segnale 95, sì, 95. Radio 5 è bello. Cavagallo, io mi sto uscendo 20, 25 watt. Certo, sì, va bene allora, dai, è stato, va bene, non è, riesce a me. Ecco, già va bene. Contate che non ci sia rumore di sopra. Ha comprato te l'hai ancora di lui? Capo, ha comprato. Ah, fatto un buon affare, un buon acquisto. Capo. Io ce l'avevo anni fa, poi me l'avevo venduto, me l'avevo venduto. Il microfono lo stai usando? Adesso le metti 60. Io non ho già una bella voce. Tu questa voce della secondiamo, va? Cavagava, è certamente che sì. Sì, ma perché non ti chiedi? No, facciamo girare, avanti Luca. Sì, mi sto ascoltando. No, secondo io che stavo levando un po' di roba da qua. Ma Luca già Luca. Io ho detto Luca, vabbè, forse ha capito mai lui. Vabbè, Luca Maricugno, avanti. Luca è a comprendere Malattini. Malattini, con più trama. Luca, ma non rispondo. Adesso a Gianluca lo chiamo Tulipano, Tulipano Nero, invece... A Luca lo chiamo Luca del Monte, mi sembra come il Rubè, se no quando già non lo risponderà quel casino. Infatti, però io mi sento sotto, in cucchia una internata io. Prova a premere senza parlare. Sì, ce l'ho. Non ho capito perché. Vabbè, già, mi riprendi che faccio una cosa, se riesco a togliere. No, aspetta, io non ce l'ho dentro la fra, perché qua non se ne sente altre cose, adesso mi incuscia e si limpida. No, non è la ventra, la cosa ti faccio la portata. Abbassa il watt? E se ti abbasso il watt, allora non lo fa. Ma quanto ce l'avevi in vatti? Al massimo? Sono pochissimo, stai a vedere. Siamo stai andando. E adesso sono le 5 vatti. Ma così non va con l'apparecchio. Bisogna andare più alto. Non so, se deve andare più alto. Allora bisogna regolare. Vabbè, dai, poi vediamo. Canale 12. Ciao Sandro, avanti, buonasera. Ciao Gianni, buonasera anche a te. Saluto, se non sbaglio, Franco, della città di Toscania. Ciao Sandro, ciao, Toscana. Va bene, fai pure fra. Gianni, figura che io gli ho parlato, tocca a loro adesso. Quindi tocca Luca primo, Luca secondo, come Luca di Sassari, Luca di Palottorese. Va bene, Luca di Sassari, buonasera. Ciao Sandro, sei con il rimbianco quando ti chiamano in camera. Ciao, ciao Sandro, ciao anche a te Luca, dai. Io che ero qua un po' impegnato, scusate. Sono, sto provando questo baracchino di nuovo con un altro microfono per vedere se esce. Ditemi un po', male? Sì, ma così è, non è che sia al massimo, ma no. Ti capiamo. Basta come modulazione già. È abbastanza. Guarda, prova a sollevarmi un peluzzino, sto peggiorando troppo? No, non sei alza nulla, prova a alzare. Non ho alzato niente. Sì, appena appena. Guarda, se così è troppo, 1, 2, 3, prova radio. Se già comincia a andare bene, dai, prova a alzare ancora. Scusate, non mi sono arrivate le pizze, dai, ci richiamo subito, dai, ciao ciao. Ehi, ehi. Se no, questa la radio non la mangio io a questo tubo. Ciao, non la cena, dai. Avanti, sa. Ehi, ok, ciao pure Roberto, dai, ok. Sì, va bene, manca il tempo, manca il tempo. Con i graccoli... Se passano non perdono, non esca, non esca a micidiare oggi, va bene. Dico una cosa, poi quest'inverno a Calamari ci hai fatto qualche scappatina? No, no, no, no, a Calamari no, sono andato a Sette, qualche volta le ho prese, un paio di volte sono andato, due o tre volte, e poi non ci ho più tornato, troppo freddo lì. Beh, è una pesca un po' particolare, mi dico, purtroppo il periodo è quello, va bene, ma adesso bisogna vedere se c'è sempre quello, se c'è qualcosa nei fichi ancora, dai, io ti ripeto, sono già, cosa sono? Già quasi un annetto che è abbandonato, non si sa se ancora ne girano pezzi o meno. E non ci dovrebbero essere, io ho trovato a fondare lì dove c'è quel muraglione lì, già li pigliano. Ah, ma i pezzi, adesso dovrebbe cominciare a prevedere. arriva dalle belle orate lì, prima si voleva la rotonda dove sono le secche, lì dovrebbero cominciare a girare. Io ho visto che ce n'erano l'altro giorno, ma nessuno pescava, ero lì quasi un'oretta seduto prendendomi il sole e cosa, ma nessuno ha pigliato nulla. Sì, lo sai cos'è, purtroppo è una pesca di pazienza quella lì, è una pesca di pazienza, ci sono giorni che te ne vai a tasche vuote, intoppi l'ora giusta, o intoppi la giornata giusta e qualcosina diciamo te la prendi, però no, adesso non lo so più, ormai diciamo che siamo usciti fuori un po' dal giro, prima già se la faceva qualche bella pescatina. Io mi appartavo una qualche volta con, sono andato con cosa, con Giuseppe, come si chiama, ma qualche volta ho preso belle mormore o da altre cose, qualcosa l'abbiamo presa, però sera abbiamo fatto una busta tra orattine da porzione, mormore, e ho preso anche una spigola. Sì, lì già ce n'è, diciamo che già ce n'è, dai, però al punto io mi ricordo eravamo andati lì in un paio, siamo andati lì, la conosci quella, chiamano Punta Tramontana, lì andando verso Lugano, lì molto prima. Certo la conosco. Cazzo, era una, appunto, adesso non lo so, è un punto micidiale quello lì, c'era circa un metro fa, e se sono procurato dei gran curi, poi che cosa avevamo? A parte l'americano e canoricchio. Però ti posso dire dei bei saraghi, Sì, lo so, ci andavo con un amico lì, con Attilio, che è abita a Palottore Stradato, già lo conosci, abita sopra negozio nostro. Non lo so, quasi pure che lo conosca. Esattamente lì dove c'è quella specie di riside, quella specie di villaggio lì, in effetti è prima della punta di Tramontana, adesso non mi ricordo come si chiama ride, che arrivi proprio su uno spiazzo, proprio sulla macchina, con la macchina, proprio lì, abbiamo calato lì, ma un pomeriggio, abbiamo fatto un bel pomeriggio lì, e avevo sentito che erano delle zone buone, ma tuttora dovrebbero essere zone buone quelle lì. Ma io è parecchio che non va via da quell'accusa dove c'è quel cancello che poi avevano chiuso, dove ci sono anche i vascoli del Lene, ce l'hai presente? No, è quella zona? Sì, vicino. Che quella zona è tutta buona, check. problema. Io... Ok. Esagerato. Ok. Ora. Aspetta che mettiamo in linea. Eccolo qua. Faccia la M. Io sono la M. C'è la M? Io ci sono la M. Va bene. Quanto se ci sono rimasti gli altri Luca e chi c'è? Luca devono essere impegnati, dai. Ho pensato, lascio che mi hanno chiamato con la carica. Dai, seguici a più tardi. Sì, va bene, ci sentiamo la carica. Avanti, se è rimasto qualcuno. Luca, ci sei? Luca? CQ12, attenzione al canale 12. 112, c'è qualcuno su 12? Hola. Brecco 12, Brecco CQ12.